sorrisi sul tuo viso, come ad agosto di queste storie fotografate dentro me, rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzare la testa, il buio all'alba che si fa d'argento. Telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare e pantaloni bianchi da tirare fuori, che c'è stato un treno per l'America senza fermarsi. Dolci da seccare, un sole che si uccide, pescatori di pelline e neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna certa e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore, e avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando, e avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non aver amato mai abbastanza. Amore, amore avrai parole nuove da cercare quando viene sera, e 100 ponti da passare e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca, un po' di tosse, Natale di agrifogli e candeline rosse. Avrai un lavoro da sudare, mattini fradici, brividi e rugiada, giochi elettronici e sassi per la strada. Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare, avrai carezze per parlare con i cani, e sarà sempre di domenica domani, e avrai discorsi chiusi dentro e mani che frugano le tasche della vita, ed una radio per sentire che la guerra è finita. Avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando, e avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore, amore, per quanto amore, amore, se amore, amore, amore, amore avrai.